situazione innanzitutto deriva non soltanto dalle alte temperature, ma anche dal fatto che fra l'inverno e la primavera abbiamo avuto una carenza di precipitazioni che sicuramente non ha aiutato. Noi sappiamo che con l'irrigazione solitamente interveniamo, si dice, in soccorso, ovvero sia andiamo a integrare quelle che sono le precipitazioni. Bene, abbiamo delle zone d'Italia dove è quasi un anno praticamente che non piove e quindi in sostanza non si parla più di irrigazione di soccorso, ma deve essere un'irrigazione continuativa perché altrimenti le piante non riescono a svilupparsi. Ci sono zone in cui magari si è riusciti a intervenire e a coprire quello che mancava appunto dal cielo, diciamo così, e delle zone in cui invece si riuscirebbe a intervenire proprio in soccorso, e se non piove nel periodo successivo alla semina o nel periodo che anticipa la fioritura, ovviamente ci sono dei grossissimi problemi. E questo è il caso di alcune parti del Veneto, questo è il caso di alcune parti della Romagna, dove addirittura abbiamo la cultura principe di quella che è la nostra pianura, che è il mais, che è oltretutto propedeutica a delle filiere zootecniche di altissimo pregio come quelle del latte, dei formaggi e della carne, dei prosciutti e altri derivati, i salumi appunto, che hanno avuto grossissimi problemi in fase di fioritura. Addirittura abbiamo delle culture che non hanno differenziato in fiori e quindi non hanno prodotto neanche le pannocchie, quindi in sostanza ha raccolto zero, solo costi di produzione da sostenere, e in altri casi invece riduzione dei raccolti fortissimi con anche qui dei bilanci che assolutamente non sono positivi.